Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a Pisa questa sera, dove si trova una delle più alte concentrazioni al mondo di competenze nel campo della robotica, per parlare di SMUTI, una sorta di fasciatura tecnologica infarcita di sensori da applicare alle braccia e al torso, che permette di tenere costantemente sotto controllo gli sforzi muscoloscheletrici a cui si sottopone chi la indossa. L'ha progettata l'Istituto TECIP, Tecnologie della Comunicazione, dell'Informazione e della Percezione, della Scuola Sant'Anna di Pisa, e ne parliamo con Emanuele Ruffaldi, che è responsabile scientifico del progetto SMUTI. Buonasera Ruffaldi. Buonasera a lei. Senta, allora Ruffaldi, parliamo di un'attrezzatura pensata soprattutto, diciamo, per gli operai che devono svolgere lavori pesanti o anche ripetitivi. Intanto le chiedo di partire proprio da una descrizione fisica di questo oggetto. Ho letto qua e là si parla di robot, ma in realtà non è un robot, non ha motori, non ha parti attive in questo senso. No, è un sistema di misura costituito da una serie di fasce che si indossano in varie parti del corpo, in particolare sulle braccia e sul torso, che tramite un sistema di sensori va a effettuare le misure di sforzo biomeccanico. Ecco, utilizza però i principi della robotica per poter effettuare queste misure. Ok, ecco, che sensori, in realtà sensori che abbiamo spesso in tasca? Esattamente, per la stima della postura utilizza delle unità inerziali che sono simili a quelle che si trovano nei cellulari, ovvero accelerometri, giroscopi e magnetometri. Quelle robe che per esempio consentono, no, di girare l'immagine quando si capovolge il cellulare, sono sensori di questa natura più o meno. Esattamente, ci dicono come si sta muovendo nello spazio e in termini di velocità e posizione un oggetto. E grazie a degli algoritmi, quando ce ne sono più di uno costituiti in una rete, si può costituire la postura del braccio o di un'altra parte del corpo. Perfetto. E questo viene messo in contemporanea alla misura dello sforzo muscolare, che è ottenuto tramite sensori elettromiografici di superficie. Cioè che vedono wireless L'attività elettrica del muscolo, e sulla base di questa attività capiscono quanto si sta contraendo sostanzialmente. Esattamente, mm-hmm. Quindi questi sono posti su alcuni fasci selezionati di muscoli e ci sono 8 elettrodi nella configurazione attuale che vanno a dare una stima dello sforzo stesso. Ecco, benissimo. Tutti questi dati a che cosa servono? Che cosa ve ne fate? Questi dati permettono di avere una stima dello sforzo effettuato durante una certa posa del braccio, quindi se ho con il braccio steso riesco a misurare e lo associo allo sforzo effettuato in tempo reale, oppure posso vedere in quali situazioni di movimentazione di carichi ho uno certo sforzo. Quindi questo, messo complessivamente e contestualizzato all'azione che fa la persona, mi dice se una certa azione può portare a degli effetti di danno sulla mia struttura biomeccanica. Ecco, infatti voi avete anche cominciato a sperimentare con dei soggetti che in qualche modo sono a rischio. Esattamente, in una prima fase del progetto avevamo lavorato con l'ASL Versilia per la selezione di soggetti nell'ambito ospedaliero, per la sala gesti, nell'ambito dei centri commerciali, e lì abbiamo fatto delle sperimentazioni preliminari per poter tarare il sistema e capire quali sono le condizioni ambientali, ovvero quali sono le situazioni che uscire dal laboratorio per poter fare una sperimentazione e effettuare le misure al meglio. E su chi le avete fatte queste misure? Quindi? Abbiamo fatto una misura per gli operatori nell'ambito commerciale, per le cassiere, per lo spostamento dei carichi, e poi più recentemente con un progetto sponsorizzato da Team per la misura degli operatori che vanno a spostare carichi come scale o tombini, in cui c'è un evidente rischio di sforzo biomeccanico. Ecco, l'obiettivo è, in una prima fase naturalmente, intanto è quello di raccogliere dati. Ci sono delle anche politiche, delle norme, diciamo, sul rischio sul posto di lavoro, per cui raccogliere questi dati consente di capire se questi lavoratori sono sottoposti a sforzi eccessivi o cose di questo genere. Ma c'è anche una, diciamo così, possibilità di rieducare, no? Di insegnare per esempio alle persone a fare i movimenti nel modo giusto. Esattamente, una volta che abbiamo caratterizzato i movimenti per una certa azione, è possibile poi utilizzare quel sistema in tempo reale per vedere se le azioni che stiamo facendo è a rischio, e quindi da lì poter dare un feedback all'operatore che gli può indicare di riposarsi oppure di cambiare il modo in cui sta facendo l'azione. Questo poi si può inserire in un contesto più ampio di addestramento degli operatori stessi. Certo. Ecco, senta, a questo punto che cosa succederà? Quali sono i progetti di sviluppo prossimi? Noi ci stiamo muovendo per una ulteriore sperimentazione sul campo, questa volta con un numero maggiore di soggetti e di operazioni, per poter dare una dei raffronti più dettagliati di quello che sta succedendo e allo stesso tempo utilizzare questa tecnologia anche in ambiti altri ambiti come quello sportivo o della riabilitazione. Va bene, grazie allora, grazie Ruffaldi, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, a lunedì.